Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano puntualmente all'ora prevista, perché questa sera parliamo di Elogio della puntualità, un libro scritto da Andrea Battista. Buonasera, dottor Battista. Buonasera, buonasera a lei gli ascoltatori. Con Marco Ongaro. Buonasera, dottor Ongaro. Buonasera. Allora, Andrea Battista, chapter chair di YPO, manager quindi, ma dovrebbe spiegarci che cos'è YPO, poi parliamo di puntualità. In due parole, è un'associazione di business leader, vale a dire di capi azienda, di matrice americana, presenti in oltre 120 paesi, con circa 20.000 presidenti e amministratori delegati che vi aderiscono, ma ha sostanzialmente uno scopo di unire insieme in attività di education e di training e di confronto capi azienda di settori completamente diversi che vengono da tutti i paesi del mondo. Ecco, per riunirli insieme la puntualità è fondamentale. Assolutamente, anche perché tutti noi facciamo ovviamente un altro lavoro, abbiamo altri impegni e quando ci troviamo è fondamentale appunto essere puntuali, una delle occasioni in cui la puntualità manifesta la sua utilità pratica. Ecco, quindi si può capire come mai le è venuto in mente di scrivere questo Elogio della puntualità. Invece Marco Ongaro fa tutt'altra cosa, fa l'autore, fa il commediografo, il drammaturgo, se non sbaglio, ma perché parlare di puntualità? Quando si va a teatro, di solito una delle poche cose puntuali in Italia è l'inizio delle opere in teatro, almeno alla Scala di Milano, forse in altri teatri un po' meno. Non solo le opere, guardi, anche le commedie, cioè il teatro è puntuale. Se passiamo ai concerti, i concerti rock, ecco lì la forma di puntualità richiede degli slittamenti di un'ora e mezza o due normalmente, ma lì rientra il calcolo dell'attesa della star, che è diverso. Ecco, lì c'è forse anche un po' di effetto scenico, si sa dall'inizio che l'orario non è una legge. Non a caso c'è il supporter, che viene previsto il gruppo supporter prima della star, quindi capisce, è un ritardo è già riempito anche, insomma. Ecco, quindi indubbiamente, quindi fa parte del programma, possiamo dire. Invece nella vita, diciamo, comune, nella vita quotidiana, la puntualità è importante. Voi in questo libro, ricordo appunto l'Elogio della puntualità, andate un po' oltre gli aspetti pratici, gli aspetti ma anche un po' etici, indubbiamente, del rispettare i patti, del dire vabbè, ci vediamo a quest'ora e vuol dire quell'ora. Anche perché appunto mettete in risalto come il tempo sia una risorsa scarsa, che tempo è denaro, come dice un detto, ma poi è realtà, e che quindi si può lavorare anche meglio, si può anche lavorare di più e produrre più reddito, e voi avete fatto quasi un modello economico sulla puntualità, in particolare Andrea Battista. Come nasce questa idea del modello economico della puntualità? Ma come accennava, nasce da un'idea tutto sommato abbastanza ovvia, se non banale, generalmente accettata, appunto, che si riassume nel comune antico detto il tempo è denaro, ma anche dall'osservazione che poi nei fatti non ci si comporta così, per quanto almeno nel nostro paese, come in altri paesi, e per quanto si consideri il denaro, quindi qualcosa che vale, una risorsa, il tempo, poi nei fatti questo viene sprecato, e la puntualità è uno dei grandi fattori di spreco. Dopodiché, ragionandoci, ci siamo accorti che poteva benissimo prestarsi a un calcolo economico puntuale, chiaramente gli calcola una sua valenza, chiamiamola così, provocatoria, ma ci consente di arrivare, data una serie di ipotesi, a una stima puntuale, ma il data una serie di ipotesi, come sappiamo, è tipica di qualsiasi ragionamento economico. Una volta assunto che il tempo è una risorsa scarsa, che il suo mancato impiego rappresenti appunto quello che gli economisti chiamano un costo opportunità, e che il reddito che il tempo produce è una buona misura del suo valore, per quanto non una misura assoluta, ma forse una delle migliori che abbiamo a disposizione per trattare il tema in modo razionale, il derivarne un calcolo e un valore è un tema soprattutto tecnico. Su questo chiaramente nel libro indugiamo, su quali sono i vari passaggi, senza diventare noiosi, ma quello che non facciamo altro è che dare un valore al tempo sulla base di quello che l'economia stessa, l'economia e il mercato valorizza quel tempo. Cioè, ecco, voi arrivate addirittura a dire che appunto se tutti fossero puntuali si potrebbe guadagnare tra i 22 e i 44 miliardi in termini di prodotto interno lordo, tra l'1,5 e il 3% appunto di prodotto interno lordo guadagnato. Beh, sarebbe un grosso passo avanti per un paese come l'Italia. Certamente, ecco, al di là del calcolo, che è ovviamente anche un aspetto provocatorio, è un obiettivo molto ambizioso, stando appunto alla realtà quotidiana. Io vorrei chiedere ad Ongaro, appunto a Marco Ongaro, come vede, se questo comportamento degli italiani è un po' così antropologicamente modificabile, oppure dobbiamo in qualche modo sì richiamare a un certo rispetto, però a un certo punto pensare che le cose vanno così perché siamo fatti così. Marco Ongaro. Allora, l'Italia è una penisola che è abbastanza lunga da nord a sud, quindi già a livello di abitudine la puntualità ha degli sbalzi notevoli. Arrivare puntuali a Roma vuol dire arrivare entro la mezz'ora, ma forse anche un'ora, per una questione di traffico che sembra assolutamente insuperabile. A Milano è già diverso, a Verona non le dico, insomma. Poi dipende, si parla sempre a livello di massa, ma si può parlare anche a livello individuale. Ci sono persone che riescono ad arrivare puntuali anche contro qualunque avversità, e altre che in ogni caso, anche se favorite da qualunque condizione, arriveranno comunque in ritardo. Quindi sì, c'è un aspetto anche psicologico personale che ha a che vedere con la puntualità, e noi l'abbiamo trattato anche in modo ironico, sì, soprattutto io sono stato affascinato quando Andrea Battista mi ha gettato questa idea, sono stato affascinato anche semplicemente dall'idea. Noi il libro l'abbiamo riempito di amenità ed è assolutamente divertente, e non sta a me dirlo, ma lo dico in quanto autore, ma la cosa interessante è che di per sé un libro che si intitola Elogio della puntualità, che ha una copertina, come lei avrà notato, con un orologio, automaticamente, a prescindere dal suo contenuto, se viene regalato a qualcuno diventa un messaggio inequivocabile. E che quindi è anche un modo per ricordare certi valori. Tra l'altro, appunto, posso confermare che il libro è una serie, appunto, anche di aneddoti, anche di storie, anche di ricordi letterari, classici, storici, che appunto ne rendono molto facile e gradevole la lettura. Tra l'altro, appunto, si ricorda che anche il genere letterario dell'elogio sia qualcosa che percorre un po' la letteratura, partendo dal classico, che è quell'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, che viene spesso citato anche senza essere stato letto. Ma poi ci sono tanti altri elogi: l'elogio del dubbio, l'elogio della pigrizia, l'elogio della solitudine, l'elogio dell'egoismo dell'amico Armando Torno, che è anche spesso su questi microfoni. Ecco, in questo senso l'elogio della puntualità è un elogio anche un po' del vivere corretto e del vivere in un mondo che è capace di cogliere anche le opportunità dal fatto di realizzare appunto degli incontri che si svolgono secondo delle regole precise del rispetto di ciascuno. Andrea Battista, sotto questo profilo il vostro è forse un modo di richiamare diciamo così i manager, chi lavora nel sistema economico, nel sistema produttivo, a fare le cose bene. Certamente, c'è un aspetto della puntualità che tocchiamo nel libro, che è quella della puntualità come manifestazione di potere. Io sono il capo, quindi dispongo del tuo tempo, alla fine lo stipendio te lo pago io. Tutte cose vere, però la conseguenza di gestire in questo modo le organizzazioni sono che l'inefficienza si propaga a cascata, perché i collaboratori del capo a loro volta, magari con un effetto moltiplicativo, si comporteranno in questo modo con i loro sottoposti, con i loro collaboratori. Siccome le organizzazioni alla fine sono sempre immagini a lungo andare dei loro leader, un'organizzazione che spreca tempo è proprio la madre di quei costi in termini di efficienza che abbiamo calcolato nel libro. Insomma, chiunque ha esperienza di organizzazioni complesse ha in mente queste tavolate di persone che indugiano aspettando che chi deve dare il via alla riunione si presenti opportunamente. Poi sappiamo benissimo che la vita è complessa, la vita è dinamica, per mille motivi si può essere in ritardo, e per questo vi sono anche alcuni suggerimenti di come gestire l'inevitabile imprevisto per minimizzare il costo in termini di risorsa tempo. E comunque il libro si conclude con l'augurio di incontri felici, armoniosi, perfetti, in questo augurio appunto al compagno e gentile lettore che non ha mancato l'appuntamento con la puntualità. Una cosa possiamo garantire, scrivete in conclusione del vostro libro, il buon gusto ci impone di non approntare mai un elogio della puntualità numero due. Meglio non sfidare la sorte con un nuovo azzardo, se già non è capitato a questo, il secondo volume rischierebbe di non arrivare puntuale. Quindi è un po' anche una confessione del fatto che, vabbè, insomma, io lo chiedo a Marco Ungaro per concludere, comunque fa parte della natura umana il fatto di avere... Sì, ma poi ci sono dei drammi nella puntualità proprio a livello personale. Noi abbiamo esaminato l'esprit de l'escalier, che è questo spirito della risposta pronta che si trova invece solo quando si è già scesi giù per le scale, la prendiamo da Diderot, che è il dramma che si vive normalmente in società. Io avrei potuto rispondere questo, questa mancanza di prontezza è una mancanza di puntualità anche sociale, no? E quindi sì, va bene azzardare un libro arguto sull'argomento, ma azzardarne due si rischia di scadere poi nell'esprit delle scalie. Ecco, dobbiamo chiudere puntuali anche noi, il tempo è volato. Io ringrazio Andrea Battista e Marco Ungaro di essere stati con noi, ringrazio anche di aver scritto questo elogio della puntualità, un libro edito da Giubilei Regnani, costa 16 euro, sono 190 pagine, ma come vi dicevo si leggono puntualmente in breve tempo e magari possono colmare l'attesa se abbiamo qualche appuntamento in cui il nostro interlocutore arriva in ritardo. Grazie a Battista Ungaro, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.